La storia e la memoria di Dino Pesole. L'avanzata del Front National alle recenti elezioni amministrative francesi, con annessa la sonora sconfitta della sinistra, che ha imposto al presidente François Hollande un immediato rimpasto nella guida e nella compagine del governo, apre scenari che investono non solo la Francia. L'onda lunga dei movimenti populisti attraversa diversi paesi europei e preoccupa un po' tutte le forze politiche tradizionali nell'imminenza delle elezioni europee del 25 maggio. Un'onda d'urto che parte da lontano. Ne parliamo questa sera con Sara Gentile, docente di scienza politica e analisi del linguaggio politico all'Università di Catania, autrice di diversi saggi sull'argomento, e da ultimo segnalo il libro Populismo e istituzioni, la presidenza Sarkozy, pubblicato lo scorso anno da Franco Angeli. Buonasera e bentornata, professoressa. Buonasera a voi e grazie. Ascoltiamo prima di tutto questi passaggi tratti proprio dal suo libro. Già il democratico Jean-Jacques Rousseau, nel Contrat social, affermava che non occorrevano rappresentanti del popolo, ma commissaire, sottoposti alla volontà del popolo con il compito di eseguirla. E precisava, a proposito del sistema parlamentare inglese, che il popolo è veramente libero nel momento in cui elegge coloro che decideranno per lui, ritornando schiavo subito dopo aver fatto ciò. Sulla sua scia si posero il giacobino Robespierre e l'esperienza dei giacobini al potere, fondata sull'affermazione della sovranità del popolo attraverso uno stretto controllo dei suoi commissari e contraria, almeno formalmente, all'istituto della rappresentanza. Il dilagare nelle democrazie occidentali di movimenti e partiti populisti, alcuni dei quali diventano forze di governo o acquistano consistente rappresentanza parlamentare, inducono a interrogarsi sul rapporto fra il populismo e le istituzioni democratiche, ossia sul nesso fra il modello di democrazia rappresentativa, consolidatosi nel corso degli ultimi 100 anni, e una concezione della democrazia diretta, evocata dai leader populisti con un richiamo fortemente demagogico al popolo, riproposto come unico e sicuro protagonista del processo democratico. In sostanza, professoressa Gentile, se ben comprendiamo il tratto portante delle tesi che vengono sostenute dai movimenti populisti, oggi come nel passato, si esprime prima di tutto nella critica frontale al sistema della rappresentanza. Sì, appunto, cogliete perfettamente, perché proprio la critica al sistema della rappresentanza, come lei sa bene, essendo un giornalista e quindi muovendosi nel mare tempestoso di questa nostra Italia, ma non solo, direi di questa nostra Europa, la critica alla rappresentanza politica e al suo fallimento, fra l'altro, fa sì che i movimenti populisti traggano linfa vitale su cui fondare poi la loro legittimità. Tant'è vero che dai primi movimenti populisti, se vogliamo richiamarci a quelli del dopoguerra, Giannini in Italia, Pujade in Francia, e poi a seguire passando per gli altri populismi, l'uomo qualunque, appunto Giannini, una delle critiche più forti è proprio quella del fossato che separa i cittadini dai governanti, perché appunto si dice il meccanismo della rappresentanza non funziona e soltanto i partiti o movimenti populisti nella persona dei loro leader si autoproclamano garanti di un rapporto diretto e sano col popolo. Ecco, ma a proposito proprio dell'uomo qualunque di Guglielmo Giannini del 44, abbiamo scovato questo passaggio del manifesto programmatico che Giannini propose agli italiani. Ascoltiamolo insieme perché è molto interessante. Assistiamo in Italia all'ignobile spettacolo di un arrivismo spudorato, al brulicare di una verminaia di ambizioni, a una rissa feroce per conquistare i posti di comando dai quali poter fare il proprio comodo e i propri affari. L'uomo qualunque non partecipa a questa rissa. Ritornati alla vita pubblica d'Italia con la vittoria militare anglo-americana, come le mosche tornano alla stalla sulle corna dei buoi. Antifascismo e fuoruscitismo pretendono, come il fascismo, il diritto a sopprimere concorrenti e chiunque altro sia d'impaccio o fastidio. Il fascismo ha offeso e ferito tutta la massa degli italiani, non soltanto gli antifascisti e i fuoriusciti. Sono i 45 milioni di esseri umani che hanno il diritto di fare giustizia, non una più o meno numerosa quota parte dei 10.000 politicanti ansiosi di rifarsi delle delusioni subite. Ci vogliono strade, mezzi di trasporto, viveri, una moneta modesta ma seria. Per questo basta un buon ragioniere. Non occorrono né Bonomi né Croce, né Selvaggi né Nenni, né il Pio Togliatti né l'accorto De Gasperi. Un buon ragioniere che entri in carica il 1 di gennaio, che se ne vada il 31 dicembre e non sia rieleggibile. Siamo disposti a chiamarlo re e imperatore, a patto che cambi ogni anno. Bene, allora, professoressa Gentile, come vediamo ci sono caratteri distintivi dei populismi che attraversano i decenni, e tuttavia il recente affermarsi di questi movimenti nello scenario europeo si differenzia moltissimo da quei gli epigoni di populismi, ad esempio l'attacco frontale all'euro, che ovviamente in quegli anni non poteva esserci. Sì, sì, ma infatti diciamo che intanto la novità degli ultimi giorni, come appunto tutti sappiamo, è questo exploit, questo séisme, questo terremoto che è avvenuto in Francia, la quale non è nuova a questi terremoti, che appunto ha visto un'avanzata incredibile del Front National di Le Pen, guidato dalla figlia di Le Pen, Marine, che non è solo, diciamo, come dire, una ereditiera, voglio dire, non ha ereditato per famiglia, anche ovviamente, ma è una che è stata allevata alla politica dal padre da quando era molto piccola. Ora, questa avanzata è chiaro che concentra come dire, le sue proposte politiche su due elementi. Uno, l'anti-europeismo tout court, e in particolare l'anti-euro, cioè l'essere contro la moneta unica, ma nel caso del Front National l'essere contro l'Europa, perché c'è proprio una campagna anti-europea che è data da lontano, cioè è una campagna che già Le Pen porta avanti dall'84, se non da prima, e che soprattutto si colora oggi, in un momento in cui la Francia è in questa crisi, avviluppata da una crisi che è anche la nostra, di molte democrazie occidentali, acquista dei toni più duri, più forti. Fra l'altro Marine Le Pen, che ha questo grande successo, perché ha successo, come voi sapete, come si sa, anche la destra, diciamo, moderata dell'UMP, cioè del partito di Sarkozy, ma sicuramente la sorpresa è questa, cioè loro hanno conquistato 11 comuni e diverse poi municipalità minori. Cosa vuol dire? Che la strategia populista, che è da una parte di protesta rispetto a una classe politica incapace e dall'altra fortemente garantista, diciamo, rispetto all'idea di nazione che l'immigrazione invece mette in forza e minaccia, e questa idea paga soprattutto perché Marine Le Pen ha innovato molto rispetto al padre, cioè mantiene delle caratteristiche fondanti che sono quelle del Front da sempre, ma per esempio privilegia la strategia sul territorio locale, cioè sul potere locale, e quindi rinuncia in questo momento a un'idea di strategia grande a livello nazionale per preparare proprio questo terreno di rete nel quale il Front National comincia a governare. Ecco, vorrei approfittare in conclusione della sua lunga esperienza all'interno di questo fenomeno per cercare di capire con lei, alla luce delle elezioni che stanno per tenersi in Europa, cioè tra poco più di un mese, quale potrà essere lo scenario, cioè se ci sarà un affermarsi dei movimenti populisti, cosa faranno le forze tradizionali, intendo la famiglia socialista, la famiglia moderata, dovranno trovare dei terreni d'intesa, oppure lei ritiene che comunque non ci sia possibilità di trovarli questi terreni d'intesa? Ma guardi, è una domanda complicata, nel senso, cioè, che io posso dire sinteticamente cosa penso rispetto ai possibili scenari, ma senza ovviamente poter fare tutti i passaggi che implica una spiegazione articolata. Cioè, intanto, come lei sa, diciamo, i sondaggi fino a 5-6 giorni fa danno il partito di Le Pen come primo partito addirittura alle europee, perché, ripeto, questa strategia di Marine rassicura il francese medio e pone degli obiettivi concreti di governo locale, riuscendo in qualche caso, non sempre, ad annodare alleanze sia pure temporanee con la destra moderata. Fra l'altro vorrei ricordare che questo è un filone che lei coraggiosamente, tra virgolette, riprende, perché è proprio la linea che l'ultimo espulso dal Front National del padre nel 98, Bruno Maigret, che non è certo il celebre commissario Simenon, certo. Era proprio, come dire, fautore di questa linea di conquista del territorio e alleanze possibili con la destra moderata, che Marine, pur avendolo messo alle carte del partito, però ha ripreso. Allora, se si dovesse profilare un successo forte delle forze populiste a livello europeo, è evidente che i partiti tradizionali devono prenderne atto, quindi o riescono prima che questo avvenga a sgretolare questo zoccolo duro, e quindi qui il problema è sempre quale idea d'Europa noi vogliamo portare avanti. Certo. E io mi chiedo, e quindi rilancio la domanda, sono i partiti tradizionali al momento attrezzati a ipotizzare e fare parte viva del loro programma elettorale quello di un'Europa diversa? Ma io vedo poco, veramente. Purtroppo la devo interrompere, abbiamo finito il nostro tempo. Comunque la ringrazio moltissimo, ha contribuito senz'altro a far capire meglio ai nostri ascoltatori e a noi con quale fenomeno effettivamente abbiamo a che fare. Grazie ancora, professoressa.